Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si potrebbe andare tutti quanti al mare a Viareggio. Si può prendere il treno alle 9, si è lì per le 10. Ci si ferma in un bar a comprare la schiaccia o ceci. Ah già, che scemo c'è qui a Rovino e non ce la fa. E non si può. E non si può. Ma non si può. Ma perché c'è il treno, è un casino la rozzina. Ma poi, ma che te ne frega te d'andare a Viareggio? Si possono fare un sacco di cose più ganze. Tipo, si potrebbe andare tutti quanti a vedere la viola. C'è il 14 ferma mi pare davanti allo stadio. Per sentire il commento magari si porta una radio. Ah già, che fava c'è qui a Rovino e non ce la fa. E non si può. E non si può. Ma non si può. La scena che accompagna questa canzoncina, che dovrebbe essere divertente, però è amarissima. È un gruppo di amici, di ragazzi e ragazze, che progettano come passare la giornata al loro tempo libero. Vorrebbero fare tante cose, andare alla partita, prendere l'autobus, andare a fare un piccolo, una piccola gita in treno, andare a trovare una persona. Tutte cose che potrebbero fare, ma non le possono fare perché c'è Jacopino, uno degli amici, che sta in carrozzina. E quindi delle cose che sembrano semplicissime, banalissime, che non costerebbero nulla, per tutti sì, per lui no. Perché no? Perché? Perché siamo un paese molto poco civile da questo punto di vista. Le città non sono sempre attrezzate per le persone che hanno difficoltà di muoversi. Difficoltà di muoversi non significa semplicemente stare solo su una carrozzina, significa avere qualche piccolo impedimento, avere un tutore, doversi appoggiare a qualcun altro, non vedere, essere fortissima, non vedere, non sentire, o anche semplicemente avere un limite di tipo psichico. Una persona non perfettamente in grado di avere una sua autonomia può girare per una città come uno zombie se non ha chi si accorge che qualcuno ha difficoltà. È scomparso a Roma qualche mese fa un ragazzo autistico, grande, ha più di 40 anni, e nessuno l'ha più trovato. Sembra impossibile, una città scompare una persona. Avevano accompagnato alla stazione persone specializzate, poi improvvisamente lui è scomparso. Non se ne sa più niente, ogni tanto ancora dentro le metropolitane romane c'è la foto di lui come sarebbe oggi, con la barba più lunga, forse vaga da qualche parte, forse la città è così indifferente e non si accorge c'è una persona con la testa non perfettamente allineata con gli standard correnti che gira per quella città. Questa canzoncina è cantata da Lorenzo Baglioni, che è anche autore del video Vengo anch'io, no tu no, contro le barriere architettoniche. Ce l'ho al telefono. Lorenzo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato. Ciao. Beh, divertente che ti sia venuto in mente di fare una canzone su un tema che dal punto di vista delle buone intenzioni sembra che lo abbracciamo tutti, poi nella realtà non gliene importa niente a nessuno. E chi è Jacopino? È vero, forse anche questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di farla. Jacopo è un ragazzo che non conoscevo tempo fa, che mi scrisse un messaggio. Lui aveva visto qualche video, qualche nostro lavoro, si era divertito, perché diciamo io principalmente faccio il comico, quindi non mi occupo di sociale solitamente. Lui anche perché sembra quasi una cosa, ti diranno ma no dai, parla di temi che fanno ridere, la disabilità non è un tema, la gente vuole stare, non vuole pensare, sarà questo, esatto, penso il problema. Esatto, che c'è sempre un po' questo rischio. Jacopo mi scrisse un bellissimo messaggio, molto, molto amichevole, molto tranquillo, spiegandomi un po' chi era, che lui ha una onlus che si chiama Vorrei prendere il treno, che parla già, dice già tutto, diciamo, il nome della sua onlus, e disse perché non, infatti ho visto i tuoi video, mi sono piaciuti, perché non facciamo qualcosa per sensibilizzare le persone su questa tematica. Io mi convinsi subito che l'avrei voluto fare, sentendo quello che lui aveva da raccontare, sentendo la forza e la passione che metteva in questa sua, tra virgolette, battaglia, e gli dissi che se mi fosse venuta in mente un'idea la reputavo, diciamo, anche carina dal punto di vista artistico, avrei sposato questa sua causa volentieri. Sì, perché il video è divertente, lui dice vengo anch'io, poi sembra rassegnato, dice vabbè allora facciamo un'altra cosa. Esatto. E sembra impossibile che le più banali attività, esatto, che fanno i ragazzi di tutto il mondo diventino invalicabili per ragazi come Jacopino. Esatto. Grazie Lorenzo. Sì, dimmi. No, lo dico, ha avuto un gran successo questo video, perché vedo che gira tantissimo in rete. Sì, Sì, infatti sì, quello era lo scopo, nel senso, quindi... L'ha fatto vedere qualcuno in qualche programma televisivo? Ma è stato al TG5, proprio trasmesso quasi tutto, è stato... Barbara D'Urso ha fatto vedere a Pomeriggio 5. Quindi sta girando anche della televisione, sta come al solito anche in questi, sì, anche in questi argomenti di solito se ne parla soltanto quando ci sono le grandi feste, la giornata delle handicap, la giornata dei ciechi, la giornata dei sordi, la giornata dei muti, la giornata degli zoppi, la giornata degli scemi, la giornata di tutti. Però normalmente dicono: beh, sai, questi argomenti teniamoli bassi, la gente non vuole pensare. Grazie Lorenzo Baglioni. 800240024. Questa mattina siamo ancora a Expo, siamo ancora al Padiglione Italia, siamo ancora ora, diciamo, nella sezione che occupa la regione Emilia-Romagna, ma parliamo di qualcosa che sembra antitetico con quello che stiamo guardando. Noi vediamo soltanto gente che cammina, che sta a piedi, che fa lunghe file, quindi gente perfettamente in grado di muoversi. Tra queste persone ci saranno comunque, perché percentualmente ci sono, persone con più difficoltà. A Expo sono attrezzatissimi, le barriere sono abbattute, stanno attentissimi che nessuno debba avere dei problemi, ma le nostre città sono così. Quali sono le barriere architettoniche, al di là delle parole, le barriere mentali che impediscono alle persone con delle difficoltà di muoversi? Oggi la mattina per raccontare quali sono, per lanciare comunque una ennesima idea che in fondo le città appartengono a tutti. Io mi sono sentito dire a un signore che occupava lo stallo riservato a mio figlio, dopo 2 ore che aspettavo che andasse a cena con la sua fidanzata, che tornasse, dice: ma dopo le 20 di sera chiunque può parcheggiare negli stalli per disabili. E sembrava convinto dell'idea che il disabile a un certo punto, come il carico e scarico merci, dopo le 20 di sera deve starsene a casa. Perché? Perché lui è handicappato, dove vuoi che vada la sera? 800240024, Antonella Cappabianco. Bianca. Ciao, buongiorno. Quando tu chiami i taxi e dici: sono una cieca, c'ho un cane, cosa ti rispondono? Allora, mediamente i tempi di attesa sono più lunghi se li chiami da fuori e vuoi essere preso, ma ancora più imbarazzante è quando sei in una stazione, per esempio stazione ferroviaria o all'aeroporto, e c'è l'assistenza che ti accompagna, ti chiede dove vuoi andare al taxi. E ci sono file di taxi liberi che però ti dicono: no, non posso, sono occupato perché c'è il cane. Quelli che ti prendono su perché sono convinti di fare una buona azione, la buona azione quotidiana. Non sanno, i tassisti proprio non lo sanno, che la norma li obbliga a prendere a bordo il cane guida. Serve una particolare attrezzatura per portare un cane guida a bordo, che molto, no, devo dire, non ho la macchina attrezzata. No, perché sono i cani guida sono comunque esentati anche dalla normativa che prevede la rete dietro, no? Il divisorio, eccetera, eccetera. Io peraltro lo chiedo sempre, lo dico sempre col cane, quindi chiedo la macchina adatta. Però eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, dovrebbe stare seduto sul tappetino o nello spazio dietro o nello spazio davanti, però insomma la normativa viene abbastanza ignorata. Molti dicono sono allergico. Sono allergico ai peli. Molti dicono sono allergico, ma in realtà chi è allergico dovrebbe detenere sempre il certificato che attesta l'allergia, perché altrimenti non dovrebbe essere rifiutato il cane. E quando tu chiami un radiotaxi, ad esempio, lo devi dire subito che hai il cane al seguito, che hai bisogno di un taxi attrezzato? Allora, in teoria non saresti neanche obbligato a dirlo. In teoria, se arriva il taxi con l'allergico, ti deve mandare il sostituto. Siccome evitare polemiche fa bene a tutti, perché poi innervosirsi non aiuta, dirlo secondo me è sempre meglio ed è sempre più corretto. Però devo dirti che mi è capitato più volte, purtroppo, di averlo detto e di aver avuto comunque problemi. Problemi in che senso? Ti fanno aspettare? Nel senso che poi arriva il taxi e dice: ma io non lo sapevo, ma io l'ho detto alla centrale, quindi che tu... Senti, non lo... Senti, visto sapevi, che analizziamo tutte le tipologie, andare in treno, andare in metropolitana, andare in autobus? Non è complicatissimo andare in metropolitana, insomma, rischi, se vai nelle ore di punta, rischi che il cane sia schiacciato dalla gente che ci cammina sopra, però insomma, se ti metti in determinate posizioni e cerchi di fare un po' da scudo, poi c'è sempre la persona più civile delle altre che dice: attenzione, c'è il cane, eccetera. L'autobus, beh, insomma, diciamo che è meno adatto della metro perché c'hai i sedili pieni, mentre la metro ha quelli vuoti, quindi se riesci a sederti il cane sotto riesci a proteggerlo. Però anche l'autobus è prendibile, il treno, beh, dipende dai treni, quelli su prenotazione assolutamente sono prendibili, a meno che il vicino non crea problemi. Io chiedo sempre il posto isolato per evitare discussioni sul cane con i vicini di posto, che legittimamente hanno pagato il biglietto come me e legittimamente possono essere disturbati dalla presenza del cane. E i treni, diciamo, regionali per pendolari sono una tragedia. Grazie Antonella Cappabianca. Grazie. 800 24 00 24. Quello che voglio questa mattina da voi sono segnalazioni di tutte quelle che sono le difficoltà, anche quelle, diciamo, più difficilmente ad essere recepite da persone anche con una spiccata sensibilità. Quelle più palesi le stiamo descrivendo. Prendere il taxi con un cane guida per un cieco, senza cane guida il cieco non si muove, non può andare in giro per una città, perlomeno è molto difficile andare in giro per una città, già un suo problema grosso, perché non ci sono delle strutture adeguate comunque per venire incontro al suo problema. Sono infinite le categorie che hanno problemi simili. Oggi vorremmo capire e avere anche testimonianze da chi ci ascolta su quelle che sono le difficoltà, ma anche minime, fare una coda e dire posso saltare la coda, se anche non si vede subito addosso che hai un problema, devi sempre descriverlo, devi portarti il certificato, molte volte ti chiedono la patente, se sei accompagnatore di una persona che ha una disabilità non sempre così immaginabile subito, ti chiedono ma mi fa vedere il documento. Roberto Romeo, buongiorno. Buongiorno. Roberto Romeo, presidente nazionale dell'ANGLAT, che è l'associazione nazionale guida, legislazione, handicap e trasporti. Vediamo di fare, mi sembra aver capito, lei è la persona che comunque ha la tipologia di tutte le situazioni che andrebbero cambiate, di tutte le sensibilità che andrebbero solleticate. Facciamo un esempio delle difficoltà, cominciando dalle più gravi, le più importanti, nel muoversi nelle nostre città, che nell'apparenza, figuriamoci, non troverò mai nessuno che mi dica figurati, tutto è aperto, tutto è accessibile, poi vai in un ristorante, ci sono problemi, prendi un mezzo pubblico, ci sono problemi. Non so se l'hai mai visto un autobus a Roma di vecchia generazione quando deve salire un passeggero con la carrozzella, sembra una sorta di gogna, si ferma l'autobus, scende con un ferretto, tira fuori una specie di ponte levatoio per farlo salire, poi lo fa, ci vuole mezz'ora. Vediamo se riesce a fare un elenco per gravità di situazioni da cambiare perlomeno. Ma guardi, innanzitutto la ringrazio per averci ospitato nella sua autorevole trasmissione. E io vivo una disabilità sulla mia pelle tra quelle meno comuni. Io sono una persona con fuoco medio agli arti superiori. Ho anche difficoltà di deambulazione. L'esempio che lei ha detto dei vecchi autobus l'ho vissuto anch'io quando ancora avevo mia mamma in vita. Da piccolo stavamo a Roma, abitavamo a Roma e prendere l'autobus era veramente un'impresa, a volte ai limiti del civile, con rischi anche fisici che potevano capitarmi. Infatti sì, perché la manovra manuale, fra l'altro, scende l'autista arrabbiatissimo, deve esatto. Farlo, ma non c'ha mai voglia, ti senti quasi in colpa, dici ma va, non lo prendo, me ne vado, non ci vado, questo viene in mente. Scusi un attimo, però fai un attimo. Do spazio un secondo solo a due telefonate, se no la gente, se non si sente rappresentata al telefono, pensa che non può chiamare. Poi continuiamo con lei. Giancarlo da Firenze, molto veloce. Salve, buongiorno. Allora, io volevo segnalare questa faccia del problema. Conosco da moltissimi anni, 40 anni, un caro amico che ha la poliomielite a una gamba e nell'età, diciamo, giovane, poi nell'età matura, ha sempre zompettato dappertutto, integrato benissimo col nostro gruppo di amici, e la nostra vita senza di lui veramente non riusciamo a immaginarcela. Ho notato che negli ultimi 5 anni, io ho 59 anni, 5-6 anni con l'età, si è un po' seduto. Noi abbiamo il problema di stimolarlo, di farlo venire, di andare alle terme, di andare in piscina, di trascinarcelo dietro, e lui ha questo atteggiamento, forse è anche normale, ma noi non ci rassegniamo. Ma sai, negli ultimi anni è aumentato il modello di iperattività, di velocità, di efficienza, di forma fisica, e chi, diciamo, sulla forma fisica comunque ha qualche piccolo problema è sempre, sempre più arretrato rispetto a una società sempre in veloce movimento. Angelo da Bergamo. Pronto? Angelo, sì. Buongiorno. Ma volevo solo, sono un disabile in carrozzina e volevo far presente una cosa al limite banale. Per esempio, se uno deve salire sopra un marciapiede, lo scivolo è quello dei passi carrali, per cui con la carrozzina tu ti ribalti praticamente. E quello che fa più incazzare, diciamo, è che ci sono dei manuali ad uso dei geometri, architetti, ingegneri, dove specificano al millimetro come devono essere fatte queste cose. Questo ma è nessuno ci pensa. Un po' di problemi. Ah, sentiamo questo problema specifico, mi piace proprio entrare nella tecnica. Roberto Romero, il grado di inclinazione sembra una banalità per chi non ha il problema, dice, ma chi se ne importa? Ma chi non ha il problema parcheggia le smart nelle rampe per le carrozzine in tutti i marciapiedi di Roma. Roberto Romero, questo problema che al momento in cui si costruisce un accesso, uno stallo, una qualsiasi zona percorribile anche da chi ha delle difficoltà, ci sono delle norme ben precise che stabiliscono in questo caso il grado di inclinazione del marciapiede, ma il geometra e l'operaio dice, ma chi se ne importa, passerà una carrozzina l'anno, chi se ne... questo è il senso? Purtroppo sì, esistono le norme, c'è la legge 503 del 96 e in più c'è il DM 236 che dà le specifiche proprio tecniche legate alle pendenze, a tutti quanti quelli che riguardano le indicazioni tecniche sugli interventi che devono fare. Però lei ha detto una cosa a lei risulta che siano sempre osservate queste norme? No, non sono sempre osservate, anche perché ad esempio la pendenza massima prevista è l'8%, ma l'8% è un qualcosa di assolutamente difficile da fare in piena autonomia per chi è su una sedia a ruote. Sicuramente il consigliabile è il 2-3-4%, in modo tale che la persona, non bisogna dimenticarsi che si parla di accessibilità legate alla piena autonomia della persona, cioè che la persona deve superare quella barriera in totale autonomia senza essere accompagnato senza uno che lo spinge, se no, chiaro. Fermiamoci solo un istante, do il metro poi continuiamo, però mi interessa, intanto si prepara la risposta. Ma se qualcuno, un disabile, un'associazione, anche un privato cittadino, vede una norma non osservata, può denunciare in qualche maniera? C'è una sanzione per chi non ha questo tipo di sensibilità? A tra poco. Melog, cronache meridiane. Non ha ancora un nome il taxista che ha rifiutato la corsa a Luca Pancalli, numero uno del Comitato Paralimpico Italiano, che martedì scorso aveva appena lasciato il municipio dopo una riunione di giunta del CONI. Ora, ai 1.600 taxisti piemontesi che per regolamento hanno l'obbligo di prestare servizio per i portatori di handicap, non resta che chiedere scusa. Non mancheremo ovviamente di sanzionare questo comportamento, e da cui tra l'altro ci affranchiamo come categoria fin da adesso, e chiediamo scusa ovviamente sia all'interessato o a chiunque abbia patito il disagio, certo. Allora non aveva un nome, il tassista che si rifiutò di caricare la carrozzina di Luca Pancalli, poi la notizia di qualche giorno fa, poi è uscita l'intervista alla moglie, lui sta piangendo, sono uscite le scuse, sono uscite l'idea delle sanzioni, ma non è tanto importante quanto sia stato punito quel tassista torinese che probabilmente ha fatto spallucce, perché per lui era un fatto trascurabile caricare o no la carrozzina di un suo passeggero, ma è andata male perché è incappato in un passeggero che ha la fortuna di avere una notorietà. Se fosse stato un normale cittadino, come tante volte sarà accaduto, ancora non staremmo qui a parlarne. Luca Pancalli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, Luca Pancalli, l'episodio Pancalli è diventato un episodio nazionale, se ne parla, ma averne parlato in questi giorni è servito a cambiare qualcosa? Ma guardi, nell'immediato non so se sia servito a cambiare qualcosa, certamente io credo che quanto accaduto debba far riflettere, non tanto perché è accaduto a me, anzi se fosse dipeso da me avrei evitato tutto il clamore che poi ha in qualche però modo... Però è stata una fortuna, detto fra noi, perché almeno ne possiamo parlare. Per questo dico, se fosse dipeso da me, dall'altro però ovviamente io mi metto nei panni di chi magari, uno dei tanti miei amici in quel di Torino, ma in qualsiasi parte d'Italia, magari in condizioni di maggior disagio e minore autonomia di quanto ne possa avere io, come si sarebbe potuto trovare a un rifiuto di questo genere. Per cui se eventi di questo genere, sia pur nella loro spiacevolezza, possono aiutare a accendere i riflettori su quello che è un tema importante del rispetto dei diritti delle persone disabili in lungo e largo nel nostro paese, perché poi quante storie di ordinaria ingiustizia si consumano quotidianamente e magari accadono a signori che magari non hanno la fortuna di poi andare sui giornali e vengono taciute e non affrontate. Guardi, io solo questa mattina ne sto registrando decine, perché ho detto datemi delle segnalazioni non soltanto di chi ha problema che ha una carrozzina, ma chiunque abbia delle difficoltà a muoversi nelle città, me ne arrivano decine. Siamo un osservatorio, devo dire, da questo punto di vista ci rendiamo conto qual è il problema. Però Pancalli, al di là delle buone parole, poi noi potremmo fare parlare di questo, lei sarà stato chiamato, intervistato, invitato, ma poi lentamente tutto ritorna nella norma, perché da questo punto di vista ci possiamo avviare ad essere un paese civile. Secondo lei cosa bisogna fare? Se noi ci mettessimo a disposizione di dire benissimo, noi teniamo un osservatorio aperto su questo problema, bisogna denunciare, bisogna chiedere delle sanzioni, quindi se le persone non si spaventano, magari continuano a mettere come tutti i giorni sotto casa mia la macchina parcheggiata nella rampa di un marciapiede, perché una signora ha pensato che quello è il parcheggio di quando va a lavorare, è normale per lei. Cosa manca? Una cultura o mancano strumenti seri di informazione? Allora, che questo è un problema. Sicuramente l'una si accompagna all'altra, nel senso che il fatto che da noi nel nostro paese ancora ci siano quotidianamente storie di ordinaria ingiustizia anche su temi che non riguardano solo la mobilità ma temi ben più gravi, penso a magari un'assistenza domiciliare negata piuttosto che un inserimento scolastico di un bambino con disagio grave non in maniera appropriata affrontato, io credo che forse manca da un lato la possibilità di comunicarle, di farle emergere, forse quasi un authority di un garante dei diritti delle persone disabili, così come ci sono per l'infanzia e quant'altro, in maniera tale che la gente poi abbia il coraggio di denunciare ciò che non va. Troppo spesso, anzi io credo nella maggior parte dei casi, rimangono storie nell'anonimato che non aiutano poi ad affrontare i problemi e migliorare la situazione del nostro paese. Allora vado più preciso, Luca Pancalli, metta che per assurdo lei avesse a disposizione una radio che dice con buona volontà noi vogliamo fare qualcosa, ma non oggi, una trasmissione e poi finisce lì, costantemente nel tempo, nei nostri spazi, con la buona volontà e la partecipazione dei nostri conduttori, fare qualcosa per dare un segno concreto. Lei da dove comincerebbe? Ma io comincerei sicuramente dall'analizzare le storie di ordinaria mancanza di rispetto ai diritti disabili, per esempio nel collocamento al lavoro, nelle storie ordinarie di ingiustizia, soprattutto laddove ci sono famiglie con disabili gravi e gravissimi a casa che hanno ben altri problemi di quelli che non posso magari avere io che sto solo su una carrozzina. Insomma, la possibilità di sentirsi dare la possibilità di sentirsi difesi. Il fatto che una radio si metta a disposizione, quindi faccia un po' da amplificatore di ciò che non funziona, secondo me è importante, perché poi ci aiuta a tenere alta l'attenzione su quelli che sono temi importanti nella vita delle persone. Vedete, purtroppo c'è un grande misunderstanding nel nostro paese, sembra quasi che le persone disabili di per sé, nel momento in cui rivendicano i diritti, vanno a finire nel contenitore dell'assistenzialismo. Non è così, noi dobbiamo aiutare a far capire che in questo paese le persone disabili, prima ancora di essere disabili, sono persone e prima ancora di essere persone sono cittadini come tutti gli altri, e come tutti i cittadini sono portatori di diritti che devono essere sacrosantemente rispettati. Se noi invece ho osservato una cosa, proprio che voglio, sto cercando di essere concreto, perché sennò io faccio una bella figura e faccio una trasmissione politicamente corretta, lei dice quello che dice da tantissimi anni, le persone fanno spallucce, non cambia nulla. Qual è il punto però di rottura? una radio che raccolga le testimonianze, le raccoglie, le mette lì, non succede niente. Le testimonianze però devono essere anche denuncia. Io mi sono reso conto, le faccio un esempio che lei conoscerà benissimo, gli stalli per disabili, che è una mia fissazione. In Italia nessuno pensa che sia un diritto o sia corrisponda a rubare qualcosa quando uno mette la macchina in uno stallo per disabili. Io ho capito che però faccio un'operazione illegale, me ne prendo la responsabilità, ho cominciato a fotografare le macchine con la targa e mandarle su Twitter. Questo è un deterrente perché le persone non lo fanno più. Se una radio volesse, senza naturalmente violare alcuna legge, essere anche strumento non soltanto di denuncia ma anche di sottolineatura della mancanza, quando è istituzionale, quando è individuale, quando è il ristoratore che non ti dà al tavolo in un posto tranquillo se c'è un ragazzo con dei problemi, evita di farti entrare con la carrozzina, chiedi un menù particolare, fa spallucce e dice la cucina è questa. Cosa potremmo fare se volessimo fare qualcosa assieme? Ma secondo me partire da queste storie, avere il coraggio di affiancare le persone che non hanno la forza di denunciare e denunciare noi. Ci sono tante associazioni, io ovviamente il mio movimento è un movimento sportivo, per cui diciamo non è deputato come mission principale a questo, ma ci sono tante associazioni di persone disabili che sono pronte a caricarsi e a fare battaglie di questa natura. Si pensi, lei giustamente ricordava alcune cose che sembrano stupide ma fanno capire alla gente, quella del ristorante, ma pensate che fino a un po' di anni fa, non so se quest'estate francamente sia ancora accaduto, noi abbiamo visto anche degli albergatori che hanno rifiutato prenotazioni a magari famiglie che avevano disabili gravi al seguito, quindi cose che non solo sono contro la legge, ma mortificano la dignità delle persone. Ora oggi ho sollevato il caso di un bed and breakfast al Vaticano che ha mandato via una famiglia con un ragazzo autistico, dice perché non ho la stanza insonorizzata per poterlo tenere. Sì, ma ecco, questo la dice, ma ecco, questo poi la denuncia, tra virgolette, la repressione, perché poi anche il sistema sanzionatorio, se esiste, deve essere pure applicato, perché altrimenti non aiuta a risolvere i problemi. Si deve poi accompagnare a una diffusione di una cultura, tra virgolette, della normalità che fatichiamo nel nostro paese, un piano inclinato a vedere rispettata. Insomma, veniamo sempre vissuti un po' come un problema. Io francamente non mi sento un problema e né credo che il mio amico con un disagio gravissimo sia un problema, credo che sia un cittadino come altri che ha difficoltà, per carità di Dio, diverse da quelle degli altri, ma alle quali in un paese civile bisogna dare risposte. Troppo spesso non c'è chi affianca in queste battaglie le persone disabili. Oggi l'associazione... Lei ce la darebbe una mano, Pancalli, se volessimo progettare qualcosa del genere? Ci dà una mano a fare qualcosa di efficace, però, che non sia soltanto parlarne? Su queste cose sono sempre in prima linea. In 34 anni di vita da disabile, da quando avevo 17 anni, ne ho viste di tutti i colori e mi reputo una persona non fortunata, di più rispetto a come mi sarebbe potuto andare e soprattutto rispetto a tanti miei amici, per cui da questo punto di vista io non solo sono con voi, ma qualsiasi cosa può essere fatta per migliorare la situazione di chi verrà dopo di noi, io credo che sia un atto di civiltà oltre che di responsabilità civile. Allora io saluto Luca Pancalli perché so che è uscito da una riunione proprio per parlarci, ci tenevo a fare questa chiacchiera con lui perché vorrei, con l'aiuto delle persone che ci ascoltano e sanno che poi se lanciamo un'idea la seguiamo, siamo costanti nel seguirle e questa soprattutto ci sta particolarmente a cuore, vogliamo cominciare a costruire pian piano senza necessariamente fare nulla di immediato, eclatante, ma dare un segno concreto che rispetto al problema della poca cultura, della poca attenzione e molte volte anche della latitanza istituzionale nei confronti di questo problema, ci sarà una radio che comunque sarà vigile. Grazie Pancalli, traffico, a tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Siamo sempre a Expo, allo spazio Regione Emilia-Romagna, Padiglione Italia. Abbiamo appena parlato con Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, che ci ha lasciato perché era uscito apposta da una riunione, perché ci tenevamo a avere una sua testimonianza. E insieme stiamo pensando di progettare uno strumento, non so ancora come lo chiameremo, comunque una radio o la trasmissione attraverso la voce del problema sarà la chiave essenziale per cercare di portare il nostro paese verso una maggiore civiltà, nell'attenzione non sia soltanto formale, di facciata, rappresentativa, il giorno della grande festa nei confronti delle persone che hanno delle difficoltà. Questa mattina, partendo l'episodio di Pancalli, cui un tassista, non avendolo riconosciuto, se no figuriamoci, gliela portava sulle spalle la carrozzina, ha detto a te non ti porto con il taxi, fino ai tanti episodi di persone che, non avendo il privilegio della celebrità, ogni giorno hanno a che fare con umanità totalmente disattenta al loro problema. Walter, da Bologna. Coletti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, volevo segnalare, dunque io chiamo da Bologna anzitutto, allora, diciamo che qui a Bologna è stata, lungo le strade del centro storico e anche in altre strade, nei pressi della periferia, sono state create delle vere e proprie barriere architettoniche artificiali, in quanto tutto è venuto fuori poiché hanno costruito un percorso adatto ad un filobus che doveva entrare in circolazione. E questo filobus, fra l'altro, avrebbe agevolato anche la salita e la discesa di persone con disabilità. E invece questo, intanto il filobus non è mai partito. Questo però resta alle rotaie. No, neanche le rotaie. È rimasto soltanto questo enorme marciapiede, quindi questa enorme corsia, al centro delle strade e senza alcun riferimento. Quindi chi deve attraversare... Che una persona senza problemi, naturalmente, beh, la scavalca e via. Una persona senza problemi o scavalca, o tra virgolette scavalca, oppure comunque si agevola come può. Però per chi volesse... Gli altri però è un problema invalicabile per chi ha dei problemi, esatto, nel mozzo, esatto, della città. Per chi vuol capire bene, perché magari non sono riuscito a spiegare, consiglio di andare su YouTube e vedere il video Liberi di non muoversi in città. Grazie. Ecco, quello che abbiamo anticipato, che ci piacerebbe fare assieme a Luca Pancalli, lo stiamo facendo in realtà. Stanno arrivando telefonate a tutta Italia delle situazioni più disperate, disparate e anche imprevedibili. Salvatore da Torino, che accade nel suo palazzo? Buongiorno. Sì. Nel mio palazzo abbiamo messo un ascensore con un enorme sacrificio, un palazzo storico di ringhiera, che in modo da poter accedere ai piani in modo più agevole. Ovviamente sono dovute realizzare degli sbarchi per andare sui vari balconi. Benissimo, questi sbarchi sono stati realizzati, poi bastava fare in modo che lo sbarco andasse dritto sul balcone, e invece il comune sembrerebbe che non ha concesso 10 centimetri per andare dritto, e quindi bisogna fare una sorta di U dopo che si esce dal e quindi non ci passa una carrozzina. Quindi la carrozzina fa fatica. Mio fratello, che ha un bambino di un anno e mezzo, con la carrozzina, quei carrozzini a tre ruote, deve fare manovra per girare e andare a casa sua. Abbiamo speso 110.000 euro e un idiota, praticamente, siccome c'era un piccolo vantaggio di una superficie irrisoria da ridere, non ha concesso questa cosa. Tra l'altro una ringhiera... Bettino da Massa Carrara, l'ultimo, Bettino. Poi chiudiamo con Roberto. Buongiorno. Bettino. Buongiorno, sì, sono io. Sì. No, volevo dirgli che, cioè, a prescindere dalla maleducazione un po' generale... Vada al punto, perché abbiamo pochi minuti, però. Qual è, sì, il suo problema? No, il problema è che c'era una disinformazione anche presso gli addetti ai lavori, perché io che sono un disabile totale, ho parcheggiato un giorno praticamente nei parcheggi dei normodotati, ho rischiato di prendere la multa perché diciamo gli addetti ai lavori mi dicevano che io ero obbligato a parcheggiare nel parcheggio dei disabili, cioè il resto diventa un obbligo praticamente. O lì o niente, ma la legge non dice assolutamente questo, è una totale baggianata. Roberto Romeo, presidente nazionale dell'ANGLAT, che l'associazione appunto si occupa della legislazione sull'handicap e trasporti, è una stupidaggine questa che si è obbligati a mettere nelle strisce gialle la macchina quando uno ha il contrassegno d'handicap, non è assolutamente così. È assolutamente una stupidaggine, ha detto bene lei, dottor Nicoletti, assolutamente. Però è l'ignoranza molte volte anche dei vigili, che non conosco manco le norme. È un'ignoranza purtroppo diffusa, qui convengo con quanto aveva anticipato Luca Pancalli, e in più secondo me va fatta un'azione anche di diffusione della cultura attraverso degli incontri formativi, soprattutto con coloro che, come i tassisti, come qualsiasi tipologia di operatori di servizi pubblici e di trasporto devono interagire con le persone con disabilità. Allora, ma guardi, ho pochi minuti, non voglio tarparla, però se per assurdo il progetto che questa mattina ci è venuto in mente di lanciare assieme a Pancalli, assieme alla radio, avesse anche lei come probabile partner, lei da cosa partirebbe? Da una denuncia e una raccolta di testimonianze e da una formazione nei confronti delle categorie che in realtà possono operare tranquillamente e operativamente subito nel maggior benessere delle persone con difficoltà? Assolutamente sì. Mi dia una scaletta, in un minuto, mi dia una scaletta di cose da fare, a due minuti. Allora, sicuramente partire da quelle che sono le situazioni, per avere un quadro, intervenire attraverso una serie di azioni anche mediatiche, ed è molto importante la vostra azione, ma da questa si deve passare dalla radio a tutte le altre possibili, no? Strumenti mediatici che sono la televisione, il web o altro, per diffondere a tutti questa cultura, perché comunque è una cultura che deriva da norme specifiche che oramai da decenni sono presenti nel nostro paese, quindi non ci dobbiamo raccontare. Le leggi ci sono, e in realtà esatto. Chi contravviene alle leggi, ci sono strumenti per richiamarlo diciamo all'attenzione sì. di chi deve poi sanzionarlo. Ci sono anche regolamenti che tutelano anche sotto il punto di vista proprio dei diritti sul trasporto. Quindi se c'è l'impunità solo perché c'è l'indifferenza, perché le leggi esatto. Ci sono, non è che mancano. Esattamente. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera richiamare l'attenzione sulle leggi e sui regolamenti, perché l'impunità non ci sia più. Assolutamente sì. Ci vorrà del noi tempo. Ci proveremo. E noi lo facciamo e saremo ben lieti di collaborare con voi. Ecco, io non so se questa mattina in questo grande passaggio di persone che stanno in fila all'Expo, che poi fra un mese finirà, magari si parlerà di altre cose, è accaduto qualcosa o potrà accadere qualcosa. La buona volontà ce la metto, è un tema che per contingenze anche personali mi appassiona e che continuerò comunque a seguire anche nella vita al di là della radio. Se la radio gli andrà di seguire questo impegno che ci siamo presi questa mattina, che potrò comunque seguire nello spazio a mia disposizione, beh, forse è nato qualcosa di importante. Dateci un vostro segnale, voi che il problema lo sentite in casa, potete continuare a chiamare e a mandarci messaggi, riprenderemo il vostro segnale e forse faremo crescere qualcosa. Alla prossima!